Cerco nella notte, mentre fuori piove. Cerco nel mio letto e penso a quante volte tu sei stata in questo letto. Io ti cerco e tu adesso non ci sei più. Cerco in un bicchiere che bevo per dimenticare. Ti cerco in un'altra storia e sto male. Guardo un biglietto che mi era stato scritto qualche mese fa. Io ti cerco e tu adesso chissà dove sei. Io ti cerco anche se so che sei di un altro.